Ed eccoci qua, lo dicevamo. In quel del Forte Prenestino. Mercoledì 18 di dicembre 2013. Strana roba a trasmettere dagli studi che non sono gli studi, trasmettere da un centro sociale, peraltro ricordavamo che molti anni fa in occasione di una festa di Radio Onda Rossa, molti molti anni fa, facemmo una 4 giorni in cui almeno il pomeriggio, ma probabilmente anche la mattina, si trasmetteva proprio dal Forte, dove si teneva in quell'estate lontana dei primi anni 90 la festa della radio. Quindi ritorniamo al Forte, ritorniamo con il Fantasma, ritorniamo con Radio Default che ha organizzato, ha messo insieme tutta questa baracca. Complimenti a loro. Ve lo ricordiamo, www.radiodefault.it. Quando navigate, state sul web e vi annoiate, volete ascoltare della buona musica. Serata che coincide peraltro con la presentazione, con la cena di Scarceranda 2014. Cena deliziosa, da poco consumata in quel della taverna del Forte. E peraltro, siccome la notte è giovane, vi invitiamo, in questo caso lo possiamo ben dire, non a trillarci, perché non è possibile, non lo vediamo. A venire direttamente al Forte parleremo poco questa sera, manderemo molti dischi, più tardi cercheremo di interloquire anche con i compagni e le compagne di Radio Default. Se si faranno qua vicini. Vabbè, vi dico pure quello della radio, dai, www.ondrossa.info, tanto questa sera siamo fratelli, gemelli, cugini, mettetela un po' come vi pare. Abbiamo un solo microfono stasera, per cui lasciamo più che la parola alla musica, al Fantasma. Comunque lui ci sa fare, e cominciamo le selezioni di questa sera. Con un disco prodotto nel 1994 per la Gridalo Forte Records. E loro sono gli Out Out. Quindi ci sembrava giusto cominciare qui al Forte Prenestino con una produzione nata qui. E questi sono gli Out Out. Trasmissione che ricordiamo stiamo facendo in combutta con Radio Default. L'amore fatto di notti, passate mille facce diverse, passo il microfono adesso a Giovanni. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e di Radio Default. Questo è l'inizio di un percorso sulle autoproduzioni. Ringraziamo Lallo, il capitano, il secchetto, Ivan, che fino adesso ci hanno accompagnato in questo DJ set. Questo è l'inizio, andiamo avanti ancora per 4 giorni e ringraziamo i compagni di Radio Onda Rossa. Dai! Dai, e noi in questa sperimentazione continuiamo a mandare dischi. E ricordiamolo, l'iniziativa è vinilica. E quindi rigorosamente in vinile. Sì, ci hanno messo quasi in imbarazzo perché noi il vinile lo mastichiamo poco. Per fortuna c'è il fantasma, vai. No, noi in diretta non ci siamo mai riusciti. Non ci siamo mai riusciti, ma come non riusciamo a fare quasi nulla in diretta? Comunque, Giovanni, Radio Le Forte, siete invitati ufficialmente alla radio e... Anche voi siete invitati ufficialmente a Radio Le Forte. Già da sabato. È promiscuità proprio, niente, non c'è niente da fare, è nata così. Vabbè, che poi in pieno stile 25 o'clock, eh? Questo incrocio tra freak e punk. E noi appunto rimaniamo su quei territori. Perché ci abbiamo pronto un disco dei Varugers. E visto che ci siamo ascoltati i Varugers da Another Religion, il pezzo era Six Shelter in Hell. Andiamo a sfregiare il punk con i Rolling Stones. E questo era Gimme Shelter, Dammi un tetto. Quindi il prossimo pezzo di cuore è a chi occupa, chi si riprende un pezzo di libertà. Ovviamente ci dobbiamo mettere la firma 25 o'clock, eh? Anche qua dal Forte Prenestino, incapaci. Che poi, a parte il nostro essere maldestri, la trasmissione più scrausa che c'è. No, ringraziamo chi ha preparato, chi invece ce la mette tutta, perché noi possiamo fare bene, ma noi bene non facciamo. Mauro, bella Mauro, grazie, ha curato tutta la parte tecnica qui per questa notte, questa giornata di Radio Default più Onda Rossa 25 o'clock. Dai, vabbè, roviniamo tutto noi adesso, non c'è problema. Come on, hit the gas and here I go. Allora, speciale 87.9 dal Forte Prenestino, mitico 25 o'clock, un po' di sano rock and roll, che dire, vi saluto, vi ricordo la cena di domani per scarcerando all'Ateneo Squat, il resto lo potete vedere sul sito www.ondarossa.info. Mi avete messo in mezzo anche stasera? Sì, l'abbiamo messo in mezzo, cos'è stasera? Domani sono sera che sono i dischi. Mettete in mezzo. Ah, di chi so i dischi secondo voi domani? Ma domani sera, boh, una presenza eterea, non so se lo riuscirete a vedere, però darà fastidio. Senti, Paolo Cox si farà sentire? Dai, dai, buona serata. Siete all'ascolto del sempre di 25 o'clock 87.9. E questa sera anche su Radio Default. E ci abbiamo pronto un altro vinile, è un piacere passarlo da queste parti. Professore, prima si parlava di autoproduzione. Più autoproduzione di Alessio Sanniti. Oh! È quel della del basso Lazio, E quindi da Latina. Il chitarrista, ricordiamo, Misanthropus. Che suoneranno, suoneranno proprio da quelle parti, non ci riesce a riportarli, diciamo, più vicino a noi. No. Verranno a Roma, però il prossimo 26 dicembre suoneranno in quel di Latina. E abbiamo pronto il vinile solista di Alessio Sanniti. Ce lo meritiamo. Ce lo ascoltiamo con Projection. No, che poi è vero che non ci arrivano i trillini, eh? Eh sì, tra l'altro sui studi stasera sono particolarmente freddi, eh. Per cui direi di venire tutti qua dove state. No, no, lo ricordiamo, se state nei paraggi del Forte Prenzino e ci avete un vinile tra le mani, passate qua al Forte e lo passiamo sicuramente. Senz'altro, e venite pure a riscaldare. Però dicevo, non ci stanno i trillini, quindi non è che ci chiamano. Come fa? Però chiamatemi sul cellulare, chi ce l'ha, dai. No, però anche qua ci fanno le richieste. Ma davvero? Eh no? No, perché è bello di portarsi i vinili, no? Che te li appoggi lì, vedono le copertine. Non c'è niente da fare, non puoi nascondere nulla. E quindi ci ascoltiamo i Motorhead. E questo è Orgasmatron. questo è sempre il 25 o'clock in diretta dal Forte Prenestino. Insieme a Radio Default. E sempre sul vinile. Già vanno in NAM. Ah, Inam, vedi, chi ci hai fatto ricordare. Nel frattempo io volevo ricordare chi ha curato la parte grafica e ringraziare, non so il nome, casomai ce lo dice adesso. Comunque sta curando la parte Alice. Alice Headquarter sarebbe, no? Dai. Che cura le visioni che stanno dietro di noi, quelle che potrete vedere anche dalle vostre automobili ascoltando noi, perché le immaginerete senz'altro. E quindi tutti colorati ci ascoltiamo in NAM. Yeah. Ricordiamo, domani Vinilica continuerà a Comunia a San Lorenzo, c'è un altro spazio occupato, poi venerdì a ZK, domani reggae, ska, roots, rocksteady, venerdì elettronica, techno, breakbeat a ZK e sabato prossimo a Radio Default da noi Castelli a Genzano, via Franco Guidobaldi 56. Ultimo giorno e poi ci vediamo alla prossima Radio Onda Rossa, li invitiamo, siamo stati invitati, continuiamo un percorso di autoproduzione, di confronto su band, DJ di Roma e provincia. Dai, buona serata. Volevamo anche dire che su Radio Default c'è una trasmissione che si chiama Femministenzia, a cura del collettivo Femministenzia, appunto, tutti i secondi e quarti martedì del mese. E ascoltateci, sosteneteci, così come anche noi sosteniamo lo spazio appena occupato su Via Ostiense dalle compagne le cagne sciolte. Quindi ascoltate Radio Default, ascoltate Femministenzia e a presto su Radio Default. Ciao, grazie. Dai, E siete sempre all'ascolto degli 87.9 MHz di frequenza e su Radio Default. E questi erano i Misanthropus dell'ultimo lavoro, Noè. Da Latina ci spostiamo a Colleferro. Loro sono i Placcaggi Hardcore. E questa è la decima traccia di Approdo. Suoni nelle tasche. E li vogliamo salutare i Placcaggio, tu che dici? È un saluto ai fratelli della Black Metal Mafia di Colleferro. Sì, dalla Valle del Sacco, la valle più inquinata del mondo, non lo so. E ci abbiamo avuto un ospite la settimana scorsa proprio della Black Metal Mafia di Colleferro. Un saluto a Pamela dei Mefitica. E da Colleferro ci spostiamo a Roma. e dai sotterranei di Roma troviamo i Doom Racer. Da loro Lords of Mercy. Ci ascoltiamo The Age of Christ. E mentre i CDJ ci guardano famelici, che vorresti dire? Oh, ma che vi guardate? Che me tocca? No, ancora andiamo un po' avanti coi vinili. Ah, eh? Meno male. Dai, Radio Onda Rossa, Radio Default, insieme questa notte in quel del Forte Prenestino, diciamo, una roba che non abbiamo fatto di frequente. Ma che hai preparato gli OM per caso, no? No, no, c'è, abbiamo un altro gruppetto delicato. Ok, allora niente, dai, 87.9 della modulazione di frequenza oppure www.radiodefault.it e potete ascoltarci in questa edizione speciale di 25 O'Clock in diretta dal freddo delle stanze segrete del Forte Prenestino a Roma, dai. E visto che ci sta a piacere, continuiamo ad essere repiti da questo viaggio nei solchi del vinile. E sempre da Roma, i Murder's Calling. Salutiamo Massimetto, tutto lo spazio 53. Eh sì. Allora, mi dicono che la cosa migliore è darli in pasto ai maiali. Bisogna affamare i maiali per qualche giorno, ma poi la vista di un cadavere a pezzi gli sembrerà come un ghiacciolo nel deserto. Bisogna rasare la testa della vittima ed estrarre i denti per il bene della digestione dei maialini. Si potrebbe fare anche dopo, ovviamente, ma non è bello rovistare nella merda di maiale, mi pare? Quelli si spazzolano le ossa come fossero burro. Ci vogliono almeno 16 maiali per completare l'opera in una seduta, quindi no. Allora, vediamo se col vinile ci riusciamo, Di maiali. Però questa qui va dedicata comunque a tutti i vegan. Circa 8 minuti. Alla Gazza Ladra, trasmissione del lunedì sera di Radio Onda Rossa. In un solo minuto. Sulle tematiche ambientaliste e vegan, da capo direi. Vediamo se ce la fai, dai. E quindi pure dal Forte Prenestino, un Come Again. Vediamo come viene. Eccolo. Allora, mi dicono che la cosa migliore è darli in pasto ai maiali. Bisogna affamare i maiali per qualche giorno, ma poi la vista di un cadavere a pezzi gli sembrerà come un ghiacciolo nel deserto. Bisogna rasare la testa della vittima ed estrarre i denti per il bene della digestione dei maialini. Si potrebbe fare anche dopo, ovviamente, ma non è bello rovistare nella merda di maiale, vi pare? Quelli si spazzolano le ossa come fossero burro. Ci vogliono almeno 16 maiali per completare l'opera in una seduta, quindi non vi fidate di chiunque vi dica che ha un allevamento di maiali. Finiscono un cadavere che pesa, diciamo, per esempio 100 kg in non più di circa 8 minuti. Questo vuol dire che un solo maiale può arrivare a consumare un chilo di carne umana cruda in un solo minuto. Da qui deriva l'espressione essere avidi come un maiale. E così apre il disco All You Need Is Violence dei Murder's Calling. Volemo salutare? No, ricordiamo, lo salutiamo il Massimetto, tutto lo spazio 53. Tutto lo spazio 51, tutte le occupazioni di Roma e pure quelle che non so di Roma, ovviamente. No, finalmente con questa iniziativa di Radio Default vinilica abbiamo l'occasione di passare dei pezzi che abbiamo solo su vinile. Raramente. E visto la nostra scarsa competenza tecnologica. Una scarsa competenza, anche scarsa, diciamo, sensibilità o volontà di voler cambiare alcunché dal nostro autismo, diciamo, produttivo. No, noi continuiamo a magnati e quindi appunto c'è giusto appunto. Ci abbiamo pronti gli Om. Quindi dal vivo questa volta, dal vinile Om. Ma con gli Om mi provoca. Perché sa che quando la pulsazione prende il ritmo dei pensieri, quando vedi un lato del vinile con un solo solco, allora bisogna andare a ruota libera, liberare i pensieri negli studi delle radio, della radio. Così come negli spazi occupati. E allora ci si chiede, qual è il modo migliore per dirvi? Che dovete fare la rivoluzione. Liberare mente e corpi. Qual è il suono giusto per farlo? È uscito fuori casualmente che è il modo migliore. E farlo con un duo. Basso e batteria. Basta poco. Basta che siate in grado di farla sta cazzo di rivoluzione. Questo è in pieno stile 25 o'clock. Loro strappate ai ritmi di produzione e consumo. Diceva quello, il produci, consuma, crepa. E noi ci siamo fuori, E quindi anche qui al Forte Prenestino andiamo ad allargare le maglie del tempo con gli OM. Sì, anche perché gli OM ci lasciano ancora, ci lascerebbero ancora 15 minuti del loro delirio. Invece noi abbiamo ancora voglia di andare a sfregiare le atmosfere che creiamo. Riusciamo a fare solo quello. Riusciamo a fare grandi danni alla come c'è via in perfetto stile punk, ma nemmeno troppo convinto. Falliamo pure in quello, Come professore? No, dico, falliamo pure nel far casino, nel cercare di far casino, di far sbagliato. Siamo coerenti. sbagliamo nello sbagliare. Quindi dagli home ci spostiamo in Svezia. Anche sul vinile dobbiamo ritornare sulla Svezia. La Svezia, niente. È la nostra maledizione. Dai, dai, ci si torna sempre. E loro sono i Bathory, o meglio, lui è i Bathory Quarton. Da Twilight of the Gods. Thank you. Radio Default e Radio Onda Rossa. www.radiodefault.it 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 25 o'clock controlla, o almeno ci prova. Vicini al cambio di voce. O più che altro vicini alla conclusione. Altre 4-5. E poi potremo smontare baracca e burattini perché domani si riparte. E ricordiamo per domani sera all'Ateneo occupato una cena a sostegno di Fagiolino. Quindi dai, accorrete. E sempre domani a Comunia continua vinilica. Siamo venerdì allo ZK e si conclude a Radio Default a Genzano sabato. Dai, eh. Ho Chi Minh says I know the revolution's failed. The police informer's known to me. E questo ragazzotto qui, Vladimir Lenin, you got it wrong. È fatto uscire questo disco il 17 di aprile del 2013, il giorno del funerale di Margaret Thatcher. Questo giovanotto sulla cinquantina che non si è mai arreso e ha aspettato sulle rive del fiume vedere passare il cadavere del suo nemico e ha pure fatto uscire un disco con scritto meno male, sei durata anche troppo Maggie. Fuck off Margaret, death to tyrants, morte ai tiranni, Julian Cope. Lennon and McCarthy are shooting it out in Southeast Asia's killing fields. Who's behind this travesty, this Cambodian atrocity? Mao and Nixon sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G.

partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, i vittoriosi a fin liberi siamo. Dai, chill out per davvero. Dopo la banda Baciocchi, dopo i palcoscenico al neon, fuck buttons. Dalle terre d'oltremanica, fottuti bottoni, perché malgrado questo miscuglio di analogico e digitale che vi abbiamo proposto questa notte, radio web che trasmettono vinili, radio in FM che trasmettono CD, fottuti bottoni, rubare il tempo ai ritmi della produzione e del consumo. Siamo Radio Default. Arrivederci, a presto. Accidenti, non c'è il telefono stasera, eh. No, ma in realtà doveva passare Giulio il metallurgico. Ma proprio questa è vera? Di persona Giulio doveva passare, però purtroppo. Ma secondo me non è vera, è una macchina lui. No, è che dorme presto. È timido. Questo lo giudicherete voi. Noi non ci fermiamo davanti a nulla. Abbiamo poco da perdere, forse anche nulla. Reputazione, soldi, fama, non è roba che ci interessa. Perché non ci abbiamo niente da vendere e niente da perdere. E a proposito di niente da vendere, se n'è andato un po' di tempo fa, lo salutiamo. Erbanana, quello che ci fa biascica alla fine delle trasmissioni. Salutiamo Erbanana, ha detto l'ultimo quadro. Dopo c'è il mostro. Bella, dai. Radio Onda Rossa, Radio Default vi salutano. O noi il prossimo appuntamento, cioè non so se ti sei fatto due conti, è per la sera del Santissimo Natale. La Natività. Che noi andremo a celebrare sentiti, intimi. Solo gruppi satanisti, mi sembra di capire. No, invece io c'avevo la scaletta di stasera, che poi non l'ho mandata, che è tutta roba dervisciga, comunque che non ha nulla a che vedere col Cristo, il cristianesimo e tutti i santi. Ci piace. salutiamo tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitare la libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE, il nostro Alberto, Marina, Jimmy. Saluto Adriano in particolare, adesso nel carcere di Ferrara. Dai, e tutti gli amici al gabbio, dai. E a Gianluca di Frascati, dai. E che vuoi? Noi ce l'andiamo sotto la luna comunista. Domani cena vegan all'Ateneo Occupato, una cena a sostegno del nostro fagiolino, dai. Dreams under a communist moon.